Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Replica. Guarda, mettete un po', sta va. Non è che c'è carico, no? Pensa che fame ci devono avere. Pensa che fame ci devono avere questi cosi. Eppure grossi, so. Ma ce n'era uno che era bello grosso, so. Stanno stravolgendo l'ambiente, mangiando tutte le risorse e si spingono oltre perché non gli bastano e vanno a cercare da mangiare nei rifiuti dell'uomo. Quindi entrano nelle strade durante... C'è ormai gli abitanti del quartiere Balduina, quartiere elegante, nato nell'opulenza del dopoguerra e negli anni del boom a Roma Nord, vengono chiamati gli abitanti di Balzuina perché ormai... pullula cinghiali ovunque, c'è addirittura un gruppo Facebook, sei di Balzuina se, prendendo in giro l'orgoglio dei balduinesi, così penso che si chiamino, roba del genere, capito? Per il fatto che ormai il cinghiale sia ovunque. Già l'ho citato prima nel collegamento con il giornale radio, mi impressiona, mi diverte la foto con lo sfondo del cupolone di San Pietro e vedere sotto i pini di Roma un cinghiale che pascola. Ma non è soltanto a Roma, Roma ormai il cinghiale è ordine del giorno, sono avvistati, anche un bello sport divertente. Il classico è signore e signore portano il cagnolino a fare i bisognini con il sacchettino in mano, belli, tranquilli, camminano e nella lontananza, tra le brume della città, vedono le zanne di un cinghiale. Lo guardano, lo prendono con lo smartphone, lo pubblicano su Facebook e diventa divertente. Divertente fino a un certo punto. Le foto che vedo una foto di Genova, ad esempio, in un drappello di 5 cinghiali in formazione di combattimento, che così camminano per strada. Ormai hanno capito i cinghiali perché devono perdere tempo a guadagnarsi il cibo tutti i giorni nelle foreste, cacciando, cercando radici. Fanno prima scendere le pendici di Monte Mario e lì trovano dei fantastici cassonetti sciorinati con ogni ben di Dio, con tutto quello che i romani hanno messo al centro della loro crapula la sera prima, lo trovano lì bello sciorinato, gli avanzi di puntarelli, gli avanzi di maccheroni, gli avanzi di matriciana, di gricia, il cinghiale ne va matto, gli arrosticini, c'è di tutto. Beh, voi avete esperienze di animali selvatici nelle vostre città? Ormai non voglio parlare di invasione, già l'invasione sarebbe un termine con un'accezione negativa. Mi diverte, mi sorprende, mi sembra qualcosa che è antitetico rispetto a tutte le visioni di città del futuro. Abbiamo in mente le smart city, abbiamo in mente le città rappresentate dalla fiction che mostra il mondo come sarà fra 20, 30, 40, 50 anni, ferrovie sopraelevate senza rotaie, automobili che volano, teletrasporto, persone che girano in città belle, a sette no, invece stanno lentamente riprendendosi lo spazio civile, le fiere, quelle che rappresentano l'immaginario degli uomini del passato. 800240024, ci fermiamo un istante, ma vorrei da oggi da voi le segnalazioni degli animali selvatici che attraversano le vostre città. A tra poco. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Melog, cronache meridiane. Replica. A Zara 1? Zara 1? Sì, guarda, per Italo Panattoni, allora c'era un branco di cinghiali che sicuramente è sceso da sopra il parco. Ora andiamo a fare un giro dall'altra parte della Cassia perché qua le persone ci hanno riferito che hanno sentito effettivamente dei spari, quindi non è da escludere magari qualche bracconiere o qualcosa del genere. No, sta facendo? Vedi, piccoli dietro. Vedi, che spettacolo! Che tavolo è più? Guardala sulla destra, guardala sulla destra, quanti ce ne stanno, piccoletti? Ah, sì. Però sono vivi, cioè, probabilmente qualcuno. Bisogna vedere se ce ne sta. È vero, non è uno scherzo. L'avvistamento del cinghiale è diventato una sorta di sport ecologico che appassiona i romani, ma non ci vuole molto. Devo dire che onestamente, non dico preoccupazione, sono abituato a camminare nei boschi, ho visto cinghiali allo stato brado, ma in realtà gli avvistamenti sono arrivati a pochi metri da casa mia. Non è detto che una sera, tornando a casa, una mattina uscendo per fare la radio, incappi nel cinghialone che sta lì bello con il musone infilato nel cassonetto di fronte a casa mia, che devo dire che onestamente presenta una refezione all'altezza di ogni desiderio cinghialesco. 800 24 00 24, parlatemi dei vostri avvistamenti. Mentre Roma osserva e filma, Genova si muove concretamente. Italo Porcile, buongiorno. Buongiorno. È Italo Porcile, l'assessore all'ambiente del comune di Genova. Voi avete affrontato il problema cinghiale in città già da qualche mese? Sì, abbiamo convocato un tavolo con la collaborazione, devo dire, preziosa del prefetto, che quando è necessario coordinare compiti, responsabilità e competenze diverse può avere un ruolo importante, e stiamo definendo, ultimando un protocollo d'intesa che faccia chiarezza rispetto a quelli che sono appunto i compiti e le responsabilità in capo a ciascuno, quindi comune per quanto possibile, con poche risorse, strumenti e uomini. Ma qual è il livello di crisi nella vostra città rispetto a quello che abbiamo ascoltato poco fa a Roma? Roma ormai è diventato, finora è soltanto un divertimento, un gioco, ma c'è dei margini di rischio. Il cinghiale non è proprio un maialino selvatico e basta, è comunque una fiera, una bestia feroce per quello che può. Sì, no, una bestia feroce, per fortuna per il momento non si è dimostrata. Sì, tale, sì, basta lasciarlo in pace, ecco, basta lasciarlo in pace, però ha dei bei denti il cinghiale. È diventato un animale fin troppo domestico, che non ha più paura di avvicinarsi alla città e alle persone, e questo, come dire, da un lato rappresenta un minor rischio perché pur essendo fauna selvatica sembra meno pericoloso magari di qualche decennio fa, è un porcastro. Dall'altro, ovviamente, si è addomesticato, diciamo, da solo, è mezzo addomesticato, però nel momento in cui cominciano a essere diverse decine ogni giorno, magari vicino alle scuole o per le strade, effettivamente bisogna... E questo è il livello diciamo, di presenza di cinghiali a Genova, diverse decine. A Genova c'è un fenomeno importante, sì, adesso non conosco i numeri di Roma, però indubbiamente a Genova ormai da parecchi mesi... Beh, a Roma in questo momento hanno altre preoccupazioni a livello, diciamo, di comune, quindi forse il cinghiale non è la prima loro emergenza. Ecco, come pensate di intervenire voi? Protocollo, ciascuno assume degli impegni, stiamo cercando di individuare tutte le zone di accesso per cercare di ricostruire, ove possibile, delle barriere un po' più efficaci di quelle costruite in passato, quando il fenomeno era molto meno significativo. Abbiamo il problema di Trump praticamente, solo per i cinghiali, dobbiamo fare delle muraglie che ci separino dalle zone dei cinghiali. Beh sì, no, l'approccio è un po' diverso rispetto ai cinghiali messicani. No, l'approccio è sicuramente diverso, regione deve fare prevenzione perché ha le risorse e le norme che la obbligano a fare questo, e quindi iniziative anche extraurbane di ben altro respiro, ha i numeri, conosce, ha le professionalità per conoscere l'animale, i comuni possono fare loro coordinando tutte le forze in campo. Adesso dirò una parola che sicuramente darà fastidio a molti, ma l'ipotesi di abbattimento a un certo punto è una delle ipotesi contemplate per evitare che ci sia questa sorta di convivenza, che ancora mi sembra un po' precoce. Magari fra qualche generazione i cinghiali diventeranno come i cagnolini, non ci porremo più il problema, ma alla fine i cinghiali che sono in città, che se ne fa? Gli si spara, si mettono le reti, si catturano, si narcotizzano? Com'è possibile poi alla fine toglierseli di torno? Qualche mese fa, prima che l'ISPRA esprimesse un parere tombale sulla materia, almeno qui a Genova e personalmente ero sempre stato orientato rispetto all'ipotesi di allontanamento, era possibile farlo, era possibile narcotizzare, era possibile utilizzare le gabbie e riportarli nei boschi e nei luoghi dove devono vivere. Un parere tombale dell'ente proposto ci dice che non è più possibile fare questo, se non in casi particolari. Perché è molto costoso come intervento. Al di là dei costi degli strumenti, che sono sempre, diciamo, minori rispetto alle esigenze e alle necessità, era almeno tecnicamente e normativamente possibile. Ora non lo è più, quindi È chiaro che in alcune situazioni in cui il pericolo è chiaro, evidente, inequivocabile, l'operatore sul territorio può anche vedersi costretto, cioè vanno fucilati, è inutile il termine questo. Se entrano in città rischiano di dover fare quella fine. Ma in quel caso cosa si fa? Bisogna fare una sorta di guardia venatoria specializzata per sparare cinghiali senza colpire altre persone, perché mi sembra è una pallottola anche abbastanza impegnativa quella, la cartuccia che ammazza il cinghiale. È per questa ragione che cerchiamo di coordinarci tra i vari enti, perché è chiaro che a quel punto deve intervenire la PM Ambiente, la ex forestale, quindi diciamo la polizia della città metropolitana, quelli regionali, la polizia municipale per la parte di viabilità, e coordinare un intervento che richiede attenzione da parte di tutte le forze. Allora, io la ringrazio, assessore Pocile, perché ci ha dato intanto l'idea di quello che è un piano razionale e strutturato di fronte a questo problema. Vi siete coordinati con tutte le forze in campo che possono avere una voce in capitolo, avete preparato un piano. In altre città ancora è a livello di facezia da Facebook, nessuno l'ha affrontato in maniera concreta, e questo spero che sia di stimolo comunque anche alle altre amministrazioni comunali. Poi sentiamo un parere ancora più specifico e ancora più informato. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Luigi, è una guardia venatoria volontaria, quindi lei si intende comunque di cinghiali? Beh, abbastanza, in quanto noi a Milano non abbiamo questo grosso problema, ma abbiamo altri problemi su altre specie invasive. Faccio un esempio. Perché, un esempio. Beh, in città in questo momento le varie specie invasive, quella più quella è la nutria, che sta colonizzando tutti quei territori acquitrinosi nella periferia, ma anche abbastanza centrali. Cioè arrivano fino ai Navigli le nutrie? Come? Le nutrie arrivano ai Navigli? La nutria non arriva nei Navigli per quanto ne sappia io, però arriva nel cimitero di Lambrate e nei cimiteri periferici della città. Questo normalmente perché non sono disturbate, mentre nel Naviglio sono disturbate, in quanto ci sono altre specie animali volatili. No, in più ci sono nel Naviglio come si dice, c'è un sacco di persone che passeggiano, i barchini che vanno avanti e indietro, quelli che fanno, ma poi sono gli happy hour, la gente la sera c'è molta folla, quindi... ma quello sicuramente. Poi guardi, io le dico per sua informazione, il Tevere è pieno di nutrie, Villa Panfili ci sono le nutrie, Roma le nutrie ci sono, ma rispetto al cinghiale ormai è un animale, la gente li scambia per i ratti, di cui è piena anche la città, esatto, e quindi non fa differenza. Cioè, guarda, ho visto un topone, guarda che bel topone, in realtà è una nutria. Esatto, ma la nutria, cioè tanto è vero che hanno dovuto fare una legge apposita per evitare di dover risarcire i danni creati dalle nutrie. Cioè la nutria è stata equiparata per legge ai topi, alle arvicole, ai ratti, e di conseguenza chiunque può abbattere una nutria. Il problema è come. Quindi la nutria può essere trattata come una zoccola, si può sparare a vista? No, sparare a vista no, per il semplice motivo che ci sono problemi di sicurezza, ci sono problemi. Ma lei autorizza, lei volendo come guardia venatoria può sparare a una nutria? Nello stesso momento che io posso sparare a una nutria in determinate condizioni di sicurezza, perché se non ci sono le condizioni di sicurezza assolutamente non si interviene. Perché è un problema. Quindi diciamo se una zona periferica, l'argine di un fiume, sì, è chiaro che di un fiume, se non ci sono le condizioni di gente che passa, non ci sono abitazioni. Non è possa andare a Corso Como e sparare una nutria. Perché noi quando interveniamo lo facciamo in diretta e stretta collaborazione con la polizia locale, provinciale, cioè della città metropolitana. Ma lei ha partecipato a una battuta di nutrie? Certo, ma lo facciamo normalmente, la nutria. E come accade la caccia? Cioè, come avviene? Diciamo, cioè... Generalmente, allora faccio un esempio pratico. Sì, quando capire. Siamo intervenuti con la polizia provinciale sull'idroscalo, lo facciamo di notte, in attesa, dato che la nutria, l'idroscalo è fortemente infestato da nutrie, queste di notte si spostano perché d'estate hanno abitudini notturne, mentre d'inverno hanno abitudini notturne. Quindi voi le abbagliate con dei fari quando loro... No, assolutamente, no. Aspettiamo che arrivano sul terreno asciutto, oppure possiamo anche con un faro individuarle e abbatterle, poi dopo viene raccolta... Ma avete un'arma a raggi infrarossi, come avete un mirino a raggi infrarossi, come fate di notte? No, assolutamente, anche perché sparare di notte non è una cosa semplice. Ma cosa spara? Col fucile da caccia spara, come fosse... Con un fucile da caccia normalissimo. E cartucce sono? Cartucce da lepre? No, cartucce normalissimo del 6, con il 6. Numero 6. Palline del 6 riescono a fermare la... Ma per il cinghiale non basta però. No, per il cinghiale si può solo sparare a palla secca col cinghiale. Quindi... Non si può sparare, cioè un fucile a canna liscia, palla secca, o se no una carabina rigata con cartucce delle potenze. Torniamo al torniamo al problema del cinghiale. Secondo lei è la stessa metodologia che si usa per le nutri? A un certo punto ci vorranno delle battute coordinate con polizia, guardie venatorie. Il signore di Genova si è espresso molto correttamente e ha detto cose giustissime, perché ogni specie invasiva ha la necessità di un certo tipo di trattamento. Il cinghiale non è pericoloso in certe condizioni, ma una femmina di cinghiale con i piccoli è pericolosissima, perché come interpreta un gesto di pericolosità per i suoi cuccioli, attacca. È un cinghiale di 70, 80 o anche più chili che attacca, uno ci lascia le gambe tranquillamente. Sì, diciamo che no? Ti apre dall'ombelico alla gola con le zanne, esatto, se vuole. No, perché abbiamo casi recenti di persone in Sardegna che sono scese dalla macchina, il cane è sceso, nel cespuglio c'era il cinghiale che nessuno aveva visto, questo è venuto fuori e gli ha aperto in due il cane. I cacciatori di cinghiale lo sanno che portano dietro ago e filo. Il cinghiale è un cane particolare, non è che qualunque cane può andare bene per il cinghiale. Sì, ma le dico, per esperienza, molte volte capita di doversi portare dietro l'ago e il filo perché il cane torna con le budella di fuori, perché il cinghiale è normale. Capita abbastanza sovente questo. Perché il cinghiale, quando il cinghiale è visto alle strette, attacca, non c'è niente da fare. Allora, fermiamoci soltanto un istante, molto interessante, sono già molti ascoltatori. Resta con noi la nostra guardia venatoria, esperto in caccia e repressione armata, il termine è quello, di specie moleste, e ci sentiamo tra un istante. 600 milioni di euro di finanziamenti, 380 tra i migliori ricercatori italiani, 7.000 eccellenze europee, tra cui 6 premi Nobel. Sono alcuni dei numeri di IRC, i fondi messi a disposizione dal Consiglio Europeo della Ricerca. Un progetto che compie 10 anni, traguardo che l'altra Europa festeggia all'Università di Padova con una puntata live. Sono Federico Taddia e vi aspetto sabato 18 marzo alle 12 presso l'aula Nievo di Palazzo Bo a Padova per conoscere i campioni della scienza in Italia e scoprire insieme l'Europa delle opportunità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su Radio24. Melog, cronache meridiane. Replica. Che abbiano letteralmente invaso i colli euganei è cosa nota, cronaca quotidiana, che si moltiplichino velocemente e copiosamente pure. Ma che i cinghiali siano pronti ad invadere la città è una novità, seppur prevedibile. E così sta avvenendo. A caccia di cibo, poco timorosi dei rumori del traffico, a cui sono abituati, poco timorosi anche degli uomini, evidentemente, branchi di cinghiali si avvicinano a Padova e alle sue tangenziali. Gli ultimi avvistamenti nei pressi della rotonda... Anche a Padova ci sono i cinghiali, mi stanno dicendo che in realtà un naviglio di Milano è pieno di nutre, naviglio martesana, ci sono nutre a tonnellate. La nostra guardia venatoria comincia a preparare il suo fucile con piombo del 6 perché lì ci sono le nutre. Qualcuno poi mi dice se possono trasmettere malattie le nutre, ma non lo so, io non mi farei mordere da una nutra, poi non ho idea. Vengo corretto, la cinghiala non ha le zanne, ha dei denti, tritura e spezza, non squarta, squarta il cinghiale. Prendo atto, ma non ho tanta competenza. Poi qualcuno propone una sorta di riciclo, di catena alimentare, sparare ai cinghiali e farne salsicce, pappardelle, bistecchine, prosciuttini, salamini per le famiglie bisognose. Potrebbe essere un buon impiego. Poi come devo comportarmi nel caso di condiloma del cavo orale? Ah no, questa è roba di Nicoletta Carbone. Comunque, siamo in una situazione veramente di emergenza. Sentiamo qualche ascoltatore. Michele da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, innanzitutto mi lasci dire che è un piacere parlare con lei perché la seguo dai tempi del Golem e quindi è un piacere parlarle. Niente, io volevo solo riportarle un episodio di cui sono stato testimone diretto, premettendo che le colline bergamasche pullulano di cinghiali che sempre più spesso si avvicinano ai centri abitati perché i nostri boschi purtroppo non hanno di che alimentare questi quindi animali. Anche Bergamo prima o poi ci saranno i cinghiali. Ma sì, addirittura c'è stato un episodio, glielo posso dire perché sulle cronache locali è apparso, un cacciatore di Iseo è morto lo scorso anno perché il cinghiale ferito con la zanna gli ha reciso l'arteria femorale ed è morto dissanguato. Certo, succede. Ed è stato trovato qualche giorno dopo. Ma l'episodio di cui sono stato testimone io è anche un episodio divertente di burocrazia italiana. Io presto servizio il mercoledì pomeriggio in un comune e quel mercoledì pomeriggio abbiamo sentito a un certo punto le impiegate dell'ufficio anagrafe urlare e siamo corsi tutti a vedere, c'era questo cinghiale di grosse dimensioni che era entrato in comune e stava correndo da un ufficio all'altro. Che comune era per l'esattezza, per capire? Comune di Credaro, a Credaro temevano fosse un topone, le impiegate urlavano salendo sulle sedie, oddio un topo, era un cinghiale. Esattamente, e la sedia non bastava chiaramente perché il cinghiale volendo raggiungeva anche un'altezza di tutto rispetto. Le colpiva. E chi è intervenuta? La guardia giurata? Il vigile comunale? No, diciamo che dopo le prime urla il cinghiale si è introdotto in un parcheggio interno e lì ha danneggiato anche qualche automobile perché correva, picchiava la testa contro gli specchietti retrovisori. Noi come prima cosa abbiamo chiamato... Nemmeno avrà fatto il tagliando per parcheggiare, figuriamoci. Assolutamente. Beh, alla fine che fine ha fatto questo cinghiale dopo aver devastato? È stato abbattuto da un cacciatore preposto e autorizzato con l'intervento dei carabinieri. Cioè c'erano i carabinieri che non potendo sparare, dicevano loro, con la pistola d'ordinanza al cinghiale, giustamente si è chiamato... Io immagino la storia, guarda, immagino il carabiniere con l'arma d'ordinanza spianata, il cinghiale che gli fa le boccacce, con quella non mi puoi sparare. Il carabiniere astuto chiama il cacciatore con il piombo unico, che come ci ha detto la guardia, a pezzo unico, lo spara, lo impallina e si mangiano tutte le bistecchine di cinghiale. Andiamo avanti, Luciano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Attendo la sua testimonianza. Sì, buongiorno. No, volevo fare presente, come tecnicamente pochi probabilmente conoscono la storia del cinghiale, io telefono da Cortona, Bassa Toscana. Quindi se ne intende, allora, lei, è terra di cinghiale. Io faccio vado in giro con i cani, vado in posti dove qualche volta trovo cinghiali feriti, abbandonati dai cacciatori di cinghiali che non sono arrivati a prenderli. E cosa fa in quel caso? Li finisce? Se li mangia lei? No, è che faccio il tartufaio, lo lascio lì e eventualmente lo segnalo dei recuperatori di cadaveri. Sì, sì. Allora, la questione è questa. Una volta noi in Italia, soprattutto qua in Toscana, avevamo un cinghialino chiamato Maremmano, che era piccolo, aveva 70-80 kg di stazza, non di più. Ora, cosa hanno fatto questa associazione di cacciatori? Hanno portato questi cinghiali dall'est, che se io parlo con un rumeno o con un ungherese, gente dell'est, li chiamano maiali selvatici, che arrivano a essere quintali. Tra l'altro sono molto prolifici. Ma in che maniera sono prolifici? Una scroffa di 6 mesi già è prolifica e riesce a fare 2 o 3 cucciolate l'anno di 6-7 cinghiali. Peggio dei conigli sono i cinghiali dell'est. Ha capito? Facciamo capire quanto sono prolifici. È la lussuria della cinghiala che è la radice di tutti i nostri mali. Però ha una crescita esponenziale. Quindi noi ci ritroviamo tranquillamente ad avere nei giardini di casa, nei giardini attorno... Quindi basterebbe una castrazione chimica del cinghiale e finirebbe tutto. No, secondo me il problema è un altro. Non voglio dare la colpa all'associazione dei cacciatori, però loro hanno portato questi cinghiali per poter, diciamo, cacciare in maniera più... Sono più grossi, non ci prendevano tanto. Anche di più perché sono molto prolifici e quindi hanno più cinghiali. Cioè. Però secondo me il problema è che loro cacciano 3-4 mesi l'anno il cinghiale. Quindi credo a ottobre, a gennaio. Gli altri mesi questi si accoppiano e fanno figli. Questo io l'ho sempre detto alle associazioni, ma perché? Poi c'è una volontà dietro, secondo me, anche particolare, perché ci deve essere un interesse economico, un giro particolare. Perché non apriamo 6-7-8 mesi l'anno fino a che questi numeri, questo numero di cinghiali diminuisce? Se no bisogna fare, che ne so, le palestre, i cinema, le televisioni per i cinghiali, per fare in modo che non si accoppino, distrarli. Comunque si accoppiano molto, lei sentì la conferma anche dal signore che ha parlato prima, che era una... Sentiamo subito, signora Luigi, guardia venatore, è vero che i cinghiali hanno questo accoppiamento frenetico? No, è abbastanza prolifica la femmina di cinghiale, questo è un dato di fatto. Il problema è... Sì, ma quella che viene dall'est, diciamo, è più focosa rispetto a quella nostrana. No, si sono accoppiate con le nostre, femmine di cinghiale, quelli che sono stati importati, dato che sono state importate delle coppie, ma sono state anche importate, poi il maschio quando è qui ha fecondato anche le femmine locali. Quindi conseguenza... abbiamo una nuova specie di cinghiale ibrido. Esatto, quindi si è incontrollabile abbastanza geneticamente il nostro cinghiale, tant'è vero che il cinghiale che proviene dai paesi dell'est può arrivare anche a 150 kg. Quindi un cinghiale di 150 kg che corre a 50 km orari, lei mi capisce che nello stesso momento che impatta è una botta che non è come essere più. Colpito da una smart a tutta velocità, più o meno, anche di più. No, anche perché, come le ripeto, loro grufolano facendo dei danni enormi anche alle culture, in quanto le grufolate che loro per un cinghiale percorrere 50 km in una notte è una cosa normale. Di conseguenza loro, se non trovano cibo, si spostano in continuazione grufolando, cioè arando letteralmente il terreno a cerca di radici. Ma sì, infatti, questo le do ragione, perché vedendo gli avvistamenti a Roma, leggo di cinghiali che stanno ormai al centro di Roma, avvistati anche, non so, alla periferia di Roma, quindi magari in una notte loro prendono, che ne so, dal casello di Roma Nord, arrivano al centro e tornano indietro, mangiano e se ne vanno. Loro tornano a casa poi la sera oppure dopo rimangono dove trovano cibo? No, loro generalmente ritornano e si spostano, il giorno successivo non tornano mai nello stesso posto dove sono andati il giorno prima, perché bestia sì ma stupid no, nel senso che è chiaro che se lui ha pascolato e ha eliminato, ha dovuto percorrere un certo numero di chilometri per pasturarsi, chiaramente quando ritorna il giorno dopo va in un'altra direzione. E certo, ce li ho mangiati. Poi potrà ritornare su quella direzione dopo 15-20 giorni. Quindi l'appostamento è molto difficile a questo punto. Anche perché abbiamo fatto delle battute notturne infruttuosissime, perché il giorno prima c'erano i cinghiali e un giorno bisogna aspettare che fanno tutto il giro e ritornano dopo una ventina di giorni. Fermo un attimo, i cinghiali sono moltiplicati. Valero d'Ancona. Buongiorno a tutti. Parli del cinghiale anconetano. Sì, no, ho sentito parlare parecchie persone, però penso che ci sia qualche problema di conoscenza. Allora, sia le Marche, l'Umbria e la Toscana hanno i battitori liberi, che possono abbattere i cinghiali, basta che non abbattono gli striati. Lo striato è il cucciolo piccolo, ok? E i battitori liberi vanno in mezzo al monte, io sto in Ancona e tra Ancona... Lei ha la patente da battitore libero? No, io sono amico di cacciatori, perché il Monte Coiro, che è sul mare, certo, uno dei punti più belli della costa adriatica, hanno fatto il ripopolamento dei cinghiali. E cosa succede? Siccome il cinghiale poi si sposta prevalentemente all'imbrunire e scende dal monte per andare a mangiare a valle, la strada del Monte Coiro, che è una strada panoramica che congiunge ancora con Firolo, lei può immaginare d'estate, sì, è un posto bellissimo, quanto flusso di persone ci sia, il comune cosa ha fatto? Ha messo 3-4 cartelli con attenzione, attraversamento animali selvatici, punto. E loro si sono lavati le mani. In più l'abbattitore libero, se vende un cinghiale, metà va all'ente parco, metà se lo tiene lui, però prima deve prendere il cuore, il fegato e portarlo a analizzare. Vabbè, scusa, allora mi spieghi la procedura. Io sono un abbattitore libero, esatto, ho la patente. Vado a prendere un cinghiale, gli sparo. In mezzo al monte, cosa? Gli sparo. Sì, poi devo prendere il coltello e tagliarlo subito a metà precisa. Va portato fuori dal monte innanzitutto, con sistemi non invasivi, perché il monte da noi è stato... Però il cinghiale bisogna togliergli subito l'intestino, la vescica, sennò no, si marcisce. Però il cuore e il fegato va portati a analizzare, perché non abbiamo malattie. Prima di mangiarselo, ecco, diciamo. Sì, esatto, certo. Quindi non costa lento. Quindi è un'operazione chirurgica, non basta abbatterlo, bisogna aprirlo, togliergli il fegato, togliergli il cuore. Esatto, siccome poi il cinghiale... Aspettare che lo analizzano, nel frattempo che ci fa col cadavere tagliato a metà? Però questa è la legge, quello che c'è al Monte Coiro, che è parco del Coiro. Sì, però la trovo un po', scusi, concettoso. Io le faccio l'esempio, prendo il cinghiale, lo sparo, sì, lo taglio a metà, prendo il cuore, prendo il fegato, me metto metà nel freezer, metà ne tengo per il comune. Vado al gabinetto di analisi. Per l'ente, che adesso è l'ente, comunque c'era anche loro un freezer per la metà del cinghiale. Sì. Prendo cuore e fegato, lo porto a analizzare, mi danno la ricevuta, passi fra 3 giorni, dopo 3 giorni torno, tutto ok, e posso mangiarmelo così. Ha capito perché gli abbattitori liberi non vanno? Perché è più la spesa che l'impresa. Secondo me vanno, l'abbattono, se lo mangiano e via. Ecco, poi non solo, il problema non è solo quello. Siccome il cinghiale poi al 75-80% fa sempre la stessa strada, perché i cani da caccia, i cani che vanno a stanare il cinghiale dal cespuglio, e i cacciatori si mettono sulle vie di fuga, perché il cinghiale ha una via di fuga sempre quella lì. E infatti non bisogna mai mettersi sulle vie di fuga dei cinghiali se sono feriti e sanno. E i piccoli, perché i piccoli, che si chiamano striati, non si possono abbattere. ok? Però siccome c'è un problema, perché su quella strada lì alla sera ci sono anche gruppi da 30-40, io mi sono trovato una 40 cinghiali, sì, un branco. Mi sono trovato una sera tornando tra Sirolo e il Poggio, che è una frazione che sta sul monte Conero, sono dovuto fermare fortunatamente perché so dove sono le discese e non so, sono stato fermo un minuto per farli passare tutti. Perché cioè, lì per se uno dicesse li abbatto ci vogliono le bombe a mano, come fa a battere qua? È una cosa impressionante, ma non solo, il comune ha fatto ripopolamento, ma se lei prende sotto un cinghiale, non solo è pericoloso e mortale, perché storci i telai, perché già basta un cane da 30 kg per storcere un telai in una macchina. Un cinghiale, femmina o maschio, va dagli 80 ai 130-120 kg. Poi è duro il cinghiale, è robusto. Non è solo che dura, è tutto muscoli. Per quello è buono da mangiare. E poi non solo, non è che non lacera, lacera, perché la prima cosa che fa il cinghiale col muso dal basso tira verso l'alto per usare le zanne. Se prende un cane fa volare 10 metri d'altezza, ma questo a un cristiano, a un cane, a chiunque sia, specialmente se si trova sulla via di fuga. Cioè non si mai accadesse. Il problema forse sarà affrontato seriamente quando vedremo il primo cittadino in una città d'Italia che andava a votare il cesto della spazzatura e lo ritroviamo aperto dal cinghiale. Allora forse prenderanno coscienza del problema. Ci fermiamo un istante, poi continuiamo. Vedo che abbiamo persone molto competenti, salvo un'ascoltatrice mi dice se il cinghiale e la nutria sono la stessa cosa. Ma signora, ma come può venire in mente? Almeno cerchi su Google, si faccia un'idea di cos'è un cinghiale e cos'è una nutria. A tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Melog, cronache meridiane, replica. Gianluca da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Ci geolocalizzi la situazione dalle sue parti. Allora, praticamente io sto sulla collina di Firenze, diciamo da parte di via Senese, da parte di Siena, sulla Senese. E niente, sono in città perché la mia casa è in città. E anche l'altra sera, tornando a casa, sei cinghiali erano praticamente, sono state piuttosto strette, sono state un po' di collina e mi hanno chiuso la strada. E meno male ero in macchina perché sono un motorino, buonanotte insomma. E poi c'ho degli olivi e praticamente sotto gli olivi mi hanno raspato quello che si poteva raspare arandomi il terreno. Forse mi hanno fatto anche un favore, ma insomma. E ma cosa cercano sotto l'olivo loro? Cercano dei bulbi dei fiori, per esempio. Ci sono ciramini selvatici, ne vanno pazzi, c'è questa aroma che li attira. Beh, però diciamo è un'altra situazione, se mi sembra di capito. Ancora non vengono perché c'è la spazzatura, c'è cielo aperto. No, qui perlomeno no ancora. Ma sai, sono usciti diciamo dalla zona incolta, sono entrati nella zona civilizzata e quindi danno fastidio alle culture. Sì, ma praticamente io sono in città, non è che sono, è proprio queste case un po' subito sopra, meno di un chilometro dal centro, insomma. Sicché sono molto molto vicini. E poi questa è la mia situazione, non conosco quelle che sono ancora più basse, ovviamente. Però sono nelle strade normalmente, insomma, non è un avvistamento unico, prima c'era uno. E ormai è l'ordine del giorno. Fermo un attimo. Carlo da Roma. Eccomi. Anche buongiorno. Lei ha avvistato cinghiali? Sì, si vedono normalmente, ma il problema è. Che zona di Roma? Che zona di Roma? Balduina, Camilluccia. Ecco, le zone diciamo noi, diciamo venendo giù dalla Camilluccia, la Balduina, passano per il parco di Montemario probabilmente. Vengono dall'Insugherata, dal parco di là. Ma i casi, la cosa che è successa a una persona che conosco, che è uscita la sera a far passeggiare il cane della Camilluccia, e ha trovato un cinghiale e il cane ci è rimasto, perché è andato a scocciare il cinghiale. Il cane è andato a abbaiare al cinghiale non sapendo nemmeno cosa fosse. Non essendo da cinghiale che sa come comportarsi, io sono un cacciatore di cinghiali. E il cinghiale che ha fatto? Gliel'ha aperto a metà il cagnolino? L'ha ammazzato, gliel'ha mozzicato, gliel'ha ammazzato. E questa è una cosa che succede. Comunque, intorno a Roma, i cinghiali ormai fra un po' li avremo a Villa Borghese, questo è chiaro. Sono arrivati alla Balduina, non è che manca poi tanto. Ma a Torre in Pietra, che sono sull'Aurelia, 15 km da Roma, hanno filmato dei lupi, un branco di lupi con la fototrappola tranquillamente, per cui gli animali ormai si stanno veramente avvicinando. Il lupo sarà attratto anche dalla lupa capitolina, ritornerà verso casa. Sicuramente, se la Raggi ce la passa, gli passeremo anche la lupa capitolina. Comunque il lupo è molto meno pericoloso. Lei però è un cacciatore di cinghiali, quindi lei se ne intende. Sta andando a caccia in questo momento. Dove sta andando a caccia? In Maremma. Ah, in Maremma. Cioè, pensi il paradosso, lei va in Maremma a cacciare il cinghiale, basterebbe s'affaccia al balcone di casa. Ma secondo lei, le faccio una domanda, scusi, da persona poco competente, alla fine si arriverà a dover prendere una soluzione, ancora si scherza, ci ridiamo sopra, è un fenomeno di costume. Lei che conosce bene il cinghiale, è un cittadino romano, ma verrà un problema vero e concreto, perché lei ha visto il cagnolino aperto a metà, ma domani che il cinghiale apre un bambino, apre un essere umano, qualcuno... E improvvisamente l'Italia si accorgerà che c'è l'emergenza cinghiali. A quel punto qual è la soluzione? Ma lui dice che sparargli, non c'è altro sistema. Ma lei che è cacciatore, no? Ma si può andare a fare una battuta di cinghiale a Montemario? Allora, in mezzo alle macchine sulle strade no. È obiettivamente complicato. Quindi cosa bisogna fare? Una battuta? A Montemario ci sono, ma tra l'altro ci sono... Il vostro ascoltatore di Ancona spiegava per relata, si chiama articolo 37, ci sono delle autorizzazioni particolari che con determinate cose. Io per esempio sono stato 20 giorni fa a una battuta di caccia in un parco archeologico per levare i cinghiali in mezzo a delle tombe etrusche. Si fanno, ci sono degli strumenti assolutamente. Quindi andrebbero, diciamo, dissuasi nei luoghi, diciamo, abitati, allontanati dalle città. Convogliati in una specie di luogo chiuso di recinto e poi abbattuti, non c'è altra soluzione. Un luogo chiuso, basterebbe convogliarli in una zona più aperta, il parco di Montemario. Lei dice, se si ritirano nel parco di Montemario, è il parco di Montemario. Quindi se noi dovessimo ipotizzare una strategia, bisognerebbe andare i battitori con le campanacce, le cose per la balduina, mandarli verso una sorta di sacca di Montemario, lì fucilarli tutti assieme. Complicato, ma è l'unica soluzione. No, mi dica lei che è esperto, pensare, io non ho idea. Pensare di prenderli, di catturarli con le reti, a parte il costo che è spaventoso, ma lei ne cattura uno o sì. Due, poi in ogni caso gli deve. Noi abbiamo fatto una trasmissione un anno fa, c'era la soluzione umanistica, ecologista, dice li sterilizziamo uno a uno. Sì, vai a tagliare le palle a un cinghiale e poi dimmi com'è possibile, capito? Li sterilizziamo uno a uno. Ma come si fa? Mi sembra che ormai non sono dei gattini, ecco, non sono dei gattini. Mi sembra che l'unica maniera sia quella di pensare, ahimè, è brutto il termine, proprio a uno sterminio sistematico del cinghiale. E è un divieto assoluto di ripopolare le aree non preposte alla caccia, mi sembra chiaro. Una riduzione controllata, parliamo di riduzione controllata. Purtroppo si è alterato l'equilibrio di alcune razze, si sono alterate, per cui c'è una priorità. In Toscana sembra che ci sia un milione di cinghiali di troppo, per cui c'è un problema anche di fuori delle città. Se sul Monte Conero l'hanno ripopolata recentemente e adesso è invasa tutta Ancona. Fermo un attimo, ecco l'esempio che mi serviva. Simone da Prato. Sì, buongiorno. Racconti la sua esperienza. Io niente, parto sempre da Prato per andare a Pontedera nel posto di lavoro e attraverso una strada che si chiama Le Vedute, che è un po' in collina. Nulla, nell'attraversare praticamente mi ha attraversato, era un cinghiale non tanto grande perché non mi ha fatto tanto danno alla macchina. L'ha beccato in pieno? L'ho preso in un angolo della macchina, del paraurti, e praticamente l'ho visto ruzzolare e l'ho preso pieno. E sono anche sceso per vedere se lo raccattavo, almeno invece? Recuperavo qualcosa. Invece niente, è partito un'altra volta. Ma non l'ha manco ammazzato? No, niente, è ripartito come un fulmine. E ora, nel raccontare la cosa a un collega, mi ha evidenziato una cosa, che siccome era, diciamo, non proprio un cucciolo, però di dimensioni piccole, era stato una media statura, ha detto, stai attento che nello scendere può darsi che ci fosse intorno la mamma o la scrofa, e il rischio è che ti potesse attrarre. Eh sì, perché come abbiamo appreso stamattina, la scrofa non avrà le zanne, ma i denti, tritura, la triturava tutto. Il pericolo è che vedendo il cucciolo in difficoltà, che io sono sceso senza pensare, l'idea era di fare portiere. Eh no, attenzione, se mai beccaste un cinghiale rimanete in macchina, non cercate, anche perché se poi lo trovate per terra svenuto e pensate che bello, me lo porto a casa e me lo mangio, magari vivo, ci lasciate le mani e ci lasciate tutto. Vabbè, ci sarebbero tantissime telefonate, Francesca da Genova, c'è un parco chiuso per emergenza cinghiale, abbiamo capito che il cinghiale è un vero problema, ci si scherza, ci si ride, finché non verrà la tragedia, speriamo di no, speriamo mai, speriamo che qualcuno ci pensi prima. Alla prossima.